trasmissione prevede di parlare dell'autografo della regina, di partner ideali e partner imbarazzanti, nonché di metafore pubblicitarie e di mani disobbedienti.